Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera cari ascoltatori, questa sera torniamo all'Università di Pisa per parlare del progetto FIZ finanziato dalla Regione Toscana. Ieri abbiamo introdotto l'argomento, ma l'idea è quella di utilizzare i resti agricoli e scarti, diciamo, della filiera agroalimentare come substrati per l'allevamento di insetti da utilizzare poi per produrre mangime col quale alimentare altri allevamenti. Ricordiamo che oltre al centro di ricerca Avanzi dell'Ateneo Pisano, nel ruolo di coordinatore scientifico, il progetto vede impegnata l'Università di Firenze, lo spin-off dell'Università di Udine Nutrigene, una cooperativa, la zoocerealicola Lunitaria, che è il capofila del progetto, e poi insomma altre realtà, un'azienda agricola e persino un'agenzia di formazione della Toscana. Per parlarci di tutto questo è tornata a trovarci la professoressa Elisabetta Rossi dell'Ateneo Pisano, nonché referente scientifico di FIZ. Buonasera, bentornata. Buonasera a tutti. Dunque, diciamo che tutto il progetto, volendolo raccontare proprio in due parole, sta proprio in quell'acronimo FIZ, perché FIZ sta per farine di insetti allevate su scarti agricoli per la produzione mangimistica. Quindi diciamo abbiamo tentato proprio in questo acronimo di racchiudere tutto il senso del progetto. Cioè si parte da degli scarti di una cooperativa agricola dove vengono prodotti ortaggi principalmente per la grande distribuzione, e quindi la preparazione, il porzionamento di questi ortaggi comporta tutta una serie di scarti che diventano poi nutrimento per due insetti, appunto, che entrano insomma a piano titolo in questo progetto e che sono la mosca soldato nera. Mentre invece nome terribile per un insetto assolutamente innocuo. E poi? Assolutamente. E l'altra specie è il Tenebrio molitor, verde delle farine, che invece vive su scarti di granaglie. Quindi, siccome la cooperativa ha anche degli scarti, siccome ha degli silos per l'immagazzinamento dei cereali, produce anche scarti, diciamo, per esempio nella pulizia di questi silos, chiaro, eccetera, quindi noi alleviamo l'altra specie su questo tipo di scarti. Ecco. E l'idea è quindi poi di prendere le larve di questi insetti, essiccarle e farne poi farine per uso mangimistico. Ecco, ieri abbiamo spiegato molto bene che questa è una scelta di sostenibilità. Gli insetti sono molto efficienti nel convertire il cibo in proteine, consumano poca acqua, hanno bassissime emissioni di CO2, occupano poco spazio e così via. Tra l'altro, a proposito di spazio, voi state lavorando su un modello adatto anche alle piccole imprese. Sì, certo. Per l'esattezza, il nostro progetto vuole proprio cercare di portare, per così dire, l'allevamento degli insetti in piccole aziende agricole. Mentre le biofabbriche di cui abbiamo parlato ieri sono fabbriche veri e propri capannoni industriali, è una scala decisamente di tipo industriale, quindi con elevata meccanizzazione, quindi scale di lavoro in cui vengono prodotte tonnellate di prodotto finale. Invece noi volevamo cercare di vedere la convenienza anche economica dell'introduzione, legata all'introduzione invece di una piccola filiera, diciamo, una filiera corta, quindi all'interno dell'azienda, chiaro, agricola. Per fornire a metro zero agli stessi animali magari allevati in quella azienda agricola il mangime. Senta, avete fatto qualche conto sul potenziale a livello europeo, a livello italiano, di questo scenario? Scarti disponibili piuttosto che produzione possibile di proteine? È molto difficile avere, tra l'altro, proprio avere dei dati attendibili su questo. Posso dirle che dei dati, tra l'altro, ormai piuttosto datati, perché risalgono al 2001, parlano di 15 milioni di tonnellate annue scarti solo di produzioni agricole. C'è poi tutto il settore dell'agroindustria che a sua volta produce moltissimi scarti, quindi stiamo parlando veramente di un potenziale elevatissimo. Naturalmente non tutto questo è destinabile all'alimentazione degli insetti, mi riferisco per esempio alle potature delle piante da frutto, certamente. Certo. Non entrano in una filiera di questo tipo. Tra l'altro è proprio compito anche del nostro progetto cercare di vedere quali sono i substrati migliori, ovviamente, che fanno rendere, per così dire, di più l'allevamento. Ecco, allora parliamo un po' di questi due insetti, il verme della farina, la mosca soldato nero. Perché loro? Dunque, sono stati scelti perché intanto sono fra le specie ammesse per l'alimentazione animale e umana nell'Unione Europea, quindi che hanno appunto un numero limitato, ammette un numero limitato di specie. La mosca soldato è la classica mosca che troviamo nelle compostiere, anche se abbiamo un giardino e quindi depositiamo le foglie e i residui vegetali. Nella compostiera frequentemente troviamo questa specie, che non è tra l'altro una specie nostra, è una specie che viene dal Sud America, ma da tempo, insomma, da parecchi anni ormai è esattamente, quindi non costituisce un problema. E invece Tenebrio molitor è una specie, diciamo, molto facile, non ho problemi a dirlo, è una specie molto che si alleva, ha uno sviluppo lento, ma è estremamente poco onerosa dal punto di vista anche pratico. Delle cure, e quindi abbiamo abbinato così. Esattamente, abbiamo abbinato una specie invece che richiede una certa cura, cioè quindi ha un tempo da dedicare, a una specie, diciamo, a minore, che richiede minori cure. Il tutto per cercare di ottimizzare, anche perché dovremo fare una valutazione anche su una convenienza economica, chiaramente, di questo tipo di allevamento. Ricordiamolo, stiamo parlando delle larve, i vermetti, mi lasci dire così, ecco, non si fa mai raggiungere lo stadio adulto all'insetto. Esattamente, vengono essiccate le larve, naturalmente quota parte delle larve vengono poi lasciate per la sviluppare, per diventare adulti, e quindi sì, esatto, un po' quella che gli zootecnici chiamano quota di rimonta. Senta, a che punto è il progetto in questo momento, progetto FITS? Chiaramente è stato un po' vittima del Covid anche lui, cioè ovviamente noi puntavamo nei primi mesi di quest'anno a trasferire l'allevamento dalla scala di laboratorio alla scala dell'impianto presso la cooperativa L'Unitaria, appunto, che è il capofila del progetto. Purtroppo, con tutto quello che è successo, appena riaprono le gabbie vi fiondate lì, da quel che ho capito, insomma. Assolutamente sì. Va bene, allora, grazie alla professoressa Elisabetta Rossi. Grazie a voi, arrivederci. È tutto anche per questa sera, l'appuntamento con Smart City torna lunedì. Buona serata.